Terzo anello, ad alta voce, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. La Hispaniola era ormeggiata un po' al largo e così dovemmo passare sotto la prua e girare intorno alla poppa di molte altre navi e i loro cavi ora sfioravano la nostra chiglia, ora pendevano sopra di noi. Alla fine però accostammo e appena messo piede in coperta fummo ricevuti e salutati dal secondo Arrow, vecchio marinaio abbronzato, con anelli alle orecchie e uno sguardo losco. Lui e il cavaliere erano in rapporti assai cordiali e amichevoli. Io però osservai subito che le cose non andavano altrettanto lisce tra il signor Trelawney e il capitano. Era questi un tipo scorbutico che sembrava scontento di ogni cosa a bordo e non attese a dircene la ragione, perché eravamo appena scesi nella cabina che ci raggiunse un marinaio. «Signore», disse, «il capitano Smollett chiede di parlarvi». «Sono sempre agli ordini del capitano. Fatelo passare», rispose il cavaliere. Il capitano, che seguiva immediatamente il messaggero, entrò subito e si richiuse l'uscio dietro le spalle. «Ebbene, capitano Smollett, che cosa avete da dirmi? Tutto bene, spero, tutto in ordine e pronti a salpare?» «Ecco, signore», rispose il capitano, «meglio parlare chiaro, credo, anche a costo di dispiacere. Non mi piace questa spedizione. Non mi piace l'equipaggio, non mi piace il mio ufficiale, ecco tutto. Forse anche, signore, non vi piace la nave?» interrogò il cavaliere, irritatissimo, a quanto compresi. «Signore, io sono stato ingaggiato in base al cosiddetto sistema degli ordini suggellati per condurre questo bastimento dove codesto signore vorrà comandarmi. Fin qui pace. Ma ecco che scopro che ogni marinaio di bassa prua la sa più lunga di me. Questo non mi pare corretto. Che ve ne pare?» «Difatti», disse il dottor Livesey, «pare anche a me». «E poi», continuò il capitano, «vengo a sapere che andiamo in cerca di un tesoro. E lo sento dire dai miei propri uomini, faccio notare. Io ritengo che nessuno di voi gentiluomini sappia bene in che storia si è cacciato. Ma devo dirvi in proposito la mia opinione. Si tratta di vita o di morte. O te o me». «Tutto ciò è chiaro lampante e suppongo piuttosto vero», rispose il dottor Livesey. «Noi ci assumiamo un rischio, ma non siamo così ignari come supponete. Inoltre, avete detto che non vi piace la ciurma. Non sono forse bravi marinai?» «Non mi piacciono, signore», rispose il capitano Smollett. «E ritengo che la scelta dei miei uomini sarebbe toccata a me, se permettete». «Forse sì», rispose il dottore. «Forse il mio amico avrebbe dovuto condurvi con sé, ma la mancanza di riguardo, se c'è stata, è stata senza intenzione. E ora, capitano, vogliate concludere? Diteci che cosa desiderate». «Ebbene, lor signori sono decisi a farla, questa spedizione?» «Senza dubbio», rispose il cavaliere. «Benissimo», disse il capitano. «E allora, dato che mi avete ascoltato con tanta pazienza dire cose che non ero in grado di provare, concedetemi ancora qualche parola. Si stanno caricando polveri e armi a prua. Ora, dal momento che c'è un buon posto sotto la cabina, perché non collocarle lì, punto primo? Poi, il cavaliere ha portato con sé quattro dei suoi dipendenti e mi dicono che qualcuno dovrebbe avere la cuccetta a prua. Perché non dar loro le cuccette sotto la cabina? Punto secondo». «C'è altro?» chiese il signor Trelawney. «Ancora una cosa», disse il capitano. «Si è già chiacchierato troppo». «Più che troppo», consentì il dottore. «Vi dirò quello che ho udito con le mie stesse orecchie», continuò il capitano Smollett, «ed è che possedete una carta di un'isola, che sulla medesima vi sono delle croci per segnare dove si trova il tesoro, e che la posizione dell'isola è...» E qui riportò longitudine e latitudine esatte. Thank you. non l'ho detto ad anima viva!» gridò il cavaliere. «I marinai lo sanno, signore!» «Livesey! Non può essere stato altri che voi o Hawkins!» gridò il cavaliere. «Poco importa chi sia stato!» replicò il dottore. E mi accorsi che né lui né il capitano prendevano sul serio le proteste del signor Trelawney. Meno di loro poi io, manco a dirlo. Il cavaliere era un tal chiacchierone impenitente. Eppure in quel caso credo che avesse ragione e che la posizione dell'isola nessuno di noi l'avesse indicata. «Bene, signore», continuò il capitano, «io ignoro chi abbia codesta carta, ma metto come condizione che la cosa sia tenuta segreta anche a me e al signor Arrow, altrimenti sarei costretto a dimettermi.» «Capisco», disse il dottore. «Secondo voi dovremmo tener nascosta questa faccenda, fare della poppa del bastimento una fortezza presidiata dai servi del mio amico e munita di tutte le armi e polveri di bordo. In altri termini, voi temete un ammutinamento.» «Signore», rispose il capitano Smollett, «senza la minima intenzione di offendervi, vi nego il diritto di mettermi in bocca le parole. Qualsiasi capitano che salpasse, avendo fondati motivi di parlare così, sarebbe ingiustificabile. E quanto al signor Arrow, lo ritengo, fino a prova contraria, onesto. Alcuni marinai lo sono quanto lui, e possono esserlo tutti, a quanto mi è dato di conoscere. Ma io sono responsabile della sicurezza della nave e della vita di ogni uomo a bordo, fino all'ultimo marinaio. La sensazione è che le cose non vadano perfettamente bene. E vi chiedo di prendere certe precauzioni o di lasciarmi rinunciare al mandato. E questo è tutto.» «Capitano Smollett», cominciò il dottore con un sorriso, «avete mai sentito parlare della favola della montagna e del topo? Dovete scusarmi, ma me la fate ricordare. Quando siete entrato qui, avrei scommesso la mia parrucca che avevate in animo ben altro.» «Siete perspicace, dottore», rispose il capitano. «Quando sono entrato qui, avevo in animo di farmi esonerare. Non ritenevo che il signor Trelawney volesse ascoltare una parola.» «E non ne voglio ascoltare altre!» gridò il cavaliere. «Se non fosse stato presente, Livesey li avrei mandato al diavolo! Comunque vi ho ascoltato. Farò quanto desiderate, ma di voi penso ancor peggio.» Quando salimo sul ponte, gli uomini avevano già cominciato a trasportare fuori le armi e la polvere, cantilenando in cadenza con i loro movimenti, mentre il capitano e il signor Arrow li sorvegliavano. La nuova sistemazione era completamente di mio gusto. Tutta la goletta era stata rimescolata. 6 cabine erano state approntate a poppa in quella che era stata la parte posteriore della stiva maestra, e quella fila di cuccette non era collegata al castello di prua che con uno stretto passaggio a babordo. Nel primo progetto si era inteso che dovessero occuparle il capitano, il signor Arrow, Hunter, Joyce, il dottore e il cavaliere. Ora dovevamo occuparne 2, Redruth e io, mentre il signor Arrow e il capitano avrebbero dormito sul ponte, nel boccaporto, che era stato allargato da ambo i lati, che quasi si poteva definire un casseretto. Basso era rimasto, e parecchio naturalmente, ma c'era spazio sufficiente per appendervi 2 amache, e lo stesso secondo sembrava soddisfatto della soluzione. Anche lui forse aveva avuto i suoi dubbi sull'equipaggio, ma non è che una supposizione, perché, come vedremo, non beneficiamo a lungo dei suoi pareri. Eravamo tutti intenti al lavoro di sistemazione delle polveri e delle cuccette, quando 1 o 2 ritardatari accompagnati da Long John arrivarono in una scialuppa. Il cuoco varcò la murata con la velocità di una scimmia e non appena scorse che cosa si stava facendo... «Ehi, ragazzi!» disse. «Che cos'è questo?» «Stiamo cambiando di posto alle polveri, John!» rispose uno. «E perché mai?» gridò John. «Fulmini! Se facciamo così, perderemo la marea del mattino!» «Ordini miei!» tagliò corto il capitano. «Potete andar sotto, galantuomo! I marinai avranno bisogno di cenare!» «Gnorsì, gnorsì!» rispose il cuoco, e toccandosi il ciuffo, scomparve immediatamente in direzione della cucina. Thank you. Tutta quella notte fummo in grande trambusto per stivare ogni cosa al suo posto e per le tante scialuppe gremite di amici del cavaliere, signor Blandley e compagni venuti ad augurargli buon viaggio e felice ritorno. Non avevo mai avuto all'Admiral Benbow una notte in cui facessi metà lavoro di quella ed ero ridotto un cencio quando un po' prima dell'alba il nostromo diede fiato al suo fischietto e la ciurma cominciò a disporsi alle barre dell'argano. «Sotto barbecue!» gridò una voce. «Regalaci una strofa!» «Quella vecchia!» gridò un'altra. «Pronto all'istante, compagni!» rispose Long John, che era lì vicino con la sua gruccia sotto l'ascella, e immediatamente proruppe nell'aria e nelle parole che conoscevo più che bene. 15 uomini, 15 uomini!» «Sulla cassa del morto!» E tutto l'equipaggio a far da coro. «Yo! Yo! È una bottiglia di rum!» Così, cantando, fecero forza sulle barre dell'argano che avevano davanti, come un solo uomo. Anche in quel momento eccitante, quella canzone mi riportò in un lampo al vecchio Admiral Benbow e mi parve di distinguere nel coro la voce del capitano. Ma presto l'ancora emerse e penzolò gocciolante dalla gru, presto le vele cominciarono a portare e terra e bastimenti a scorrer via da una parte e dall'altra. E prima che potessi buttarmi giù per carpire un'ora di sonno, la Hispaniola aveva iniziato il suo viaggio verso l'isola del tesoro. Di questo viaggio non starò a raccontare i particolari. Fu fantasticamente fortunato. Il bastimento dimostrò di essere un buon veliero. Gli uomini erano marinai consumati e il capitano sapeva a fondo il suo mestiere. Ma prima che avvistassimo l'isola del tesoro, erano accaduti due o tre fatti che occorre conoscere. Anzitutto, il signor Arrow risultò ancora peggiore di quanto il capitano avesse temuto. Non aveva la minima autorevolezza sugli uomini e sotto di lui la ciurma faceva il comodaccio proprio. Ma il peggio della faccenda non era questo, poiché dopo uno o due giorni di navigazione cominciò ad apparire sul ponte con gli occhi imbambolati, le gote rubiconde, la lingua impastoiata e altri segni di ubriachezza. Non ci fu verso mai di scoprire dove attingesse per bere. Era il mistero del bastimento. Per quanto indagassimo, non ci riuscì mai di risolverlo. e quando chiedevamo a lui a viso aperto, si contentava di ridere se era bevuto e se era normale di negare solennemente di aver mai assaggiato altro che acqua. Non soltanto era inutile come ufficiale e di pessimo esempio ai marinai, ma era evidente che di quel passo si avviava di filato alla morte. Cosicché nessuno rimase granché sorpreso, né granché afflitto quando una notte scura a mare grosso scomparve del tutto e non fu più riveduto. Job Anderson, il nostro uomo, era l'uomo più adatto che avessimo a bordo e fu lui che, pur mantenendo la sua vecchia qualifica, assunse in certo qual modo le funzioni di secondo. Il signor Triloni aveva navigato e la sua competenza ce lo rese assai utile perché non di rado, con la bonaccia, montava di guardia lui stesso. E il timoniere, Israel Hans, era un vecchio esperimentato uomo di mare, scaltrito e capace di fronteggiare qualsiasi situazione. Costui era il confidente intimo di Long John Silver e averlo così nominato mi conduce a parlare del nostro cuoco di bordo, Barbecue, come lo chiamavano i marinai. L'equipaggio intero lo rispettava e obbediva. Aveva una sua maniera particolare di parlare a ciascuno e di obbligare ognuno a qualche servizio. Con me era invariabilmente gentile e sempre lieto di vedermi nella sua cucina, che teneva linda come uno specchio, con i suoi piatti lustri appesi al muro e il pappagallo nella sua gabbia in un angolo. Su via, Hawkins, soleva dire. Vieni qui a far due chiacchiere con John. Nessuno è più benvenuto di te, ragazzo mio. Siediti e senti le novità. Questo è il capitano Flint. Chiamo così questo mio pappagallo dal nome del famoso filibustiere. Questo è il capitano Flint, che predice fortuna al nostro viaggio. Vero o no, capitano? E il pappagallo a strillare con stupefacente rapidità. Pezzi d'otto, pezzi d'otto, pezzi d'otto. Finché John non buttava il fazzoletto sulla gabbia. Vedi? Seguitava. Codesto uccello potrà avere 200 anni. La maggior parte vive in eterno. E se qualcuno ha visto più scelleratezze di lui, non può essere che il diavolo in persona. Ha navigato con England, il grande capitano England, il pirata. È stato al Madagascar, al Malabar, a Surinam, Providenza e Portobello. Ha visto ripescare le navi naufragate della Plata. È lì che ha imparato il suo pezzi da otto. E non deve stupirci. Ce n'erano 350.000, Hawkins. È stato all'abordaggio del viceré delle Indie, al largo di Goa. E a vederlo... lo diresti un pulcino. Ma hai annusato la polvere, no, capitano? Accosta per l'arrembaggio! Accosta per l'arrembaggio! Strillava il pappagallo. Ah, è un vero furbacchione questo qui, diceva il cuoco offrendogli zucchero dalla tasca, e l'uccello a becchettare le briciole a sgranare un rosario di bestemmie inaudite una di fila all'altra. Vedi, vedi, soggiungeva Long John, non si tocca pece senza impeciarsi. Eccoti questo povero uccelluccio mio, innocente, che ti spara bestemmie a ripetizione, e non c'è un essere più costumato di lui. Puoi esserne certo, bestemmierebbe a quello stesso modo, per così dire, davanti a un cappellano. E John si toccava il ciuffo con una sua particolare mossa solenne che mi induceva a giudicarlo il miglior uomo del mondo. Frattanto il cavaliere e il capitano Smollett continuavano a tenersi a distanza. Prendemmo un po' di maltempo che non fece che far risaltare le qualità della Espagnola. Ogni uomo a bordo aveva l'aria pienamente soddisfatta, e non poteva essere altrimenti, perché a mio giudizio non ci fu mai equipaggio così viziato da che Noè prese in mare. Ogni minimo pretesto, razioni doppie di punch, torta nei giorni più stravaganti, come per esempio se il cavaliere avesse sentito dire che era il compleanno di qualcuno, e sempre una botte di mele aperta, dove poteva attingere chiunque ne avesse voglia. «Mai visto nascere bene», diceva il capitano al dottor Livesey. «Marinai viziati, diavoli scatenati! Questa è la mia opinione!» Ma del bene ce ne venne dalla botte di mele, come sentirete, perché se non era quella non avremmo avuto nessun preavviso e avremmo potuto perire per tradimento, tutti quanti eravamo. Ecco come accadde il fatto. Eravamo entrati negli Alisei, per prendere il vento dell'isola dove eravamo diretti. Non posso essere più preciso. E ora filavamo nella sua direzione, stando in vedetta assidua di giorno e di notte. Tutta la velatura alta e bassa portava, e tutti erano di umore eccellente, perché eravamo ormai prossimi alla conclusione della prima parte della nostra avventura. Dunque era appena tramontato il sole, e avendo sbrigato tutte le mie faccende, mi dirigevo verso la mia cuccetta quando fui preso dalla voglia di una mela. Corsi in coperta. Il turno di guardia era tutto a prua a scrutare la comparsa dell'isola. L'uomo al timone badava al gioco delle vele, fischiettando dolcemente per conto suo, ed era questo l'unico rumore, salvo il fruscio delle onde contro la prua e lungo i fianchi della nave. Io mi infilai tutto entro la botte delle mele, e trovai che ce n'era rimasta appena qualcuna. Ma stando lì dentro, al buio, fosse il rumore delle acque o il rollio della nave, mi ero assopito, o stavo per addormentarmi, quando un corpo pesante si sedette con una specie di schianto lì contro. La botte tremò quando ebbe ad appoggiarci le spalle, ed io stavo proprio per balzar su quando l'uomo cominciò a parlare. Era la voce di Silver, e non aveva pronunciato una dozzina di parole che io non mi sarei scoperto per nulla al mondo, e rimasi lì tremebondo, tendendo le orecchie in un parossismo di paura e di curiosità, perché da quella dozzina di parole avevo capito che la vita di tutte le persone da bene su quel bastimento dipendeva ormai da me solo. Thank you.